Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è Italia in controluce, la seconda edizione. Quasi un anno fa l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica nel Cilento, un simbolo di legalità, ucciso in una calda fine d'estate da qualcuno che ancora non è stato identificato. Quasi un anno dopo, Pollica, con la sua frazione principale Acciaroli, ha eletto un nuovo primo cittadino mentre le inchieste vanno avanti. E lo scenario che emerge sembra sempre essere più locale. Intanto nel Cilento, spento il clamore di un anno fa, l'unica cosa che ci hanno dato, dice a Radio 24 il nuovo sindaco, è toglierci il festival intestato a Vassallo. Il racconto di Raffaella Calandra. Gli ombrelloni sono stati già tirati fuori e il mare brilla in questa perla del Cilento che si prepara alla stagione estiva. Un anno dopo, ad Acciaroli c'è un nuovo sindaco e sulla torre normanna non pende più la foto di Angelo Vassallo, ma le indagini sul delitto del primo cittadino paladino contro l'illegalità sono ancora aperte e portano in realtà sempre più verso una dimensione locale. Noi avevamo votato l'anno scorso e non pensavamo certo di ritornare quest'anno al voto, soprattutto a seguito di quello che è successo il 5 settembre. Stefano Pisani è stato per anni il vice di Angelo Vassallo e ora ne ha raccolto l'eredità politica eletto a nuovo sindaco di Pollica, questo comune che con le spiagge della sua frazione più grande, Acciaroli, e gli ulivi delle sue colline è diventato l'emblema di un altro turismo possibile, dove le case non si costruiscono sulle spiagge e le pietre delle vecchie stradine vengono recuperate e non asfaltate. Quando a settembre dell'anno scorso qualcuno sparò ad Angelo Vassallo, sembrò la vendetta della camorra per i no del sindaco. In realtà quasi un anno dopo, anche se sullo sfondo non si esclude un contorno camorristico, dice a Radio 24 una qualificata fonte giudiziaria della Procura di Salerno, prevale la dimensione locale. Si è parlato di droga e di un gruppo di spacciatori che Vassallo aveva affrontato, ma anche di un comitato d'affari dei paesi vicini. Si è rispolverata una questione legata ad un presunto abuso edilizio del ristorante della famiglia come tensioni intorno al porto. In questi mesi sono anche esplose due molotov davanti ad un albergo di Acciaroli, ma i responsabili del delitto di Vassallo non hanno ancora un nome e questo pesa sulla comunità. Io l'ho detto il giorno del funerale di Angelo. Fino adesso Angelo Vassallo è stato la sentinella di questo territorio, adesso tutti i cittadini di Pollica, tutti i cittadini del Cilento devono contribuire affinché questo territorio rimanga libero, bello e soprattutto un esempio del sud che ce la fa. Ecco sindaco, ci sono stati degli episodi però come delle molotov contro un albergo, lo stesso procuratore ha detto in più occasioni che c'è qualcuno che potrebbe parlare e che non lo fa, perché questi silenzi. Per quanto riguarda la comunità di Pollica, chi ha sempre tenuto a questo paese è andato più volte in procura, compreso me, compreso tante altre persone. Ci sono ovviamente delle cose che ci preoccupano. Gli episodi come quelle molotov, come se li spiega? Sono relativi a persone e a fatti che sono sempre molto lontani dalla nostra comunità. Cioè le molotov sono un chiaro segnale di estorsione, di una richiesta di estorsione? Sicuramente è un fenomeno che noi non conosciamo al momento. Delle due molotov, so che è collegata a delle persone, però non credo che le ingerenze esterne possano determinare conseguenze sulla comunità, anche perché Angelo si è sempre battuto in prima linea affinché questi fenomeni non attecchiscano mai sul nostro territorio. E infatti era stato ad esempio uno dei primi a denunciare anche il caso di una cosiddetta strada fantasma e che ha portato anche a 6 arresti. Nel caso specifico noi siamo stati così attenti da andare a verificare quanto bitume fosse stato posto in essere su una strada provinciale, erogati 600.000 euro, i lavori effettuati erano invece pari soltanto a 150.000 euro. Tanti avevano assicurato la vicinanza e la solidarietà al comune modello di legalità, ma in realtà, dice ora il neo sindaco Pisani, dal governo abbiamo ottenuto solo che ci hanno tolto un festival. Il ministro Romano, anziché mantenere a Pollica l'evento sulla dieta mediterranea dedicata ad Angelo Vassallo dal ministro ministro Galan vuole spostare la conferenza intergovernativa a Lampedusa. Questa è l'unica cosa che abbiamo ottenuto dal governo al momento. Le indagini, come lei stesso diceva, ancora non hanno portato ad un quadro chiaro. Sembra però comunque emergere che rispetto a quell'ipotesi iniziale di un delitto politico camorristico voluto dall'esterno, ecco, ci siano tanti elementi che conducono anche verso logiche più strettamente locali. Io l'ipotesi camorristica mi è sembrata sempre molto inverosimile. Sì, ci potrebbe essere un qualcosa di più vicino alla realtà locale, non strettamente collegata al comune di Pollica, a comuni vicini. Abbiamo pensato invece molto più approfonditamente alle vicende legate alla droga. La droga, dunque, come possibile movente? Un gruppo di spacciatori Vassallo li aveva visti e affrontati personalmente in una delle ultime sere passate in giro nel suo paese. C'era anche la moglie, Angelina, che in realtà all'ipotesi della camorra non aveva mai davvero creduto. Ci avrebbero prima minacciato, obietta, ritornando col pensiero all'anno scorso. Uno immagina tante cose, però dalle nostre parti non è mai successo un fatto del genere. Ma la comunità sta collaborando, secondo lei? Tante persone sono state sentite. Ci sono anche però stati degli episodi non ancora ben chiariti dopo il delitto di suo marito, come delle bombe incendiarie. Non è niente a che vedere con quello che è successo a Angelo. Come lei stessa e come molti hanno detto, quella non è una zona di camorra. Ci sono tanti spunti che sembrano far portare anche a dinamiche più locali. Queste cose non sono mai successe, però penso che la camorra in qualche modo fa qualche minaccia e noi queste minacce non ne abbiamo avute. Rientravamo a casa a qualsiasi ora della notte. Sono rientrata fino alle 3, alle 4 di notte e salivo sola a casa, i miei figli altrettanto. Quando me l'hanno detto io non riuscivo proprio a pensare una cosa del genere. C'era infatti qualcuno che aveva tirato fuori anche una storia del vostro ristorante? Sono tirate fuori di tutto e di più, ecco. Nonostante il rimbombo degli spari un anno fa, in questo borgo di ulivi e mare trasparente la gente non ha cambiato il suo modo di vivere. Le porte delle case restano aperte, le pietre recuperate ed amate. Non si ferma il nostro lungo viaggio tra i nuovi sindaci italiani. Oggi Jacopo Matano intervista Andrea Ballarè, primo cittadino di Novara. La mia figura è una figura di un professionista di 44 anni che decide di buttarsi in questa avventura, che è un'avventura che era letta come perdente 3 mesi fa, e quindi è stata una scommessa assoluta. Ecco, appunto, una scommessa, come dice lei, una scommessa vinta 2 volte, se si vuole, perché Novara è una città governata storicamente dalla Lega ed è anche la città natale di Roberto Cota, governatore del Piemonte. Come avete fatto a strappare al carroccio questo feudo storico? Siamo riusciti a strapparlo una bellissima campagna elettorale che ci ha portato in mezzo alla gente, con un programma elettorale che nella concretezza però ha proposto un'idea di futuro, termine che noi abbiamo contrapposto invece alla politica del giorno dopo fatta dal governo di centrodestra, trazione leghista. E leggevo che uno dei punti di forza della vostra campagna elettorale è stato il porta a porta, un metodo che sembrava appannaggio della Lega ormai negli ultimi anni, dopo la fine delle ideologie, del quale sembra invece siate riusciti a riappropriarvi. Perché la Lega ha fallito in questo senso, secondo lei? Perché loro non lo fanno più, questa è la vera verità. La Lega novarese è una Lega che si è dimostrata una Lega di palazzo, un po' arrogante e sentita come tale. È una Lega che era partita in questo modo, no? come partito di popolo, ma che poi si è ritrovata con i difetti classici dei partiti di sempre. Ecco, però, nonostante non ci sia più il porta a porta leghista, immagino che rimangano quei temi che sono stati cavallo di battaglia della Lega per molto tempo, come ad esempio quello della sicurezza e quello dell'immigrazione. Come farete a far convivere la sicurezza e l'integrazione, la convivenza, in un modello che sia alternativo a quello del carroccio? Guardi, noi quando siamo partiti con la campagna elettorale abbiamo fatto dei sondaggi e il tema della sicurezza è uno dei temi che viene a quinto e sesto posto. Il primo problema era quello delle strade, buchi, marciapiedi, perché evidentemente Novara è comunque una città dove si sta bene, quindi si può permettere di avere come primo problema questo. Poi il secondo problema era quello del lavoro, naturalmente, perché comunque anche qui c'è stato un incremento importante delle nuove povertà, delle crisi aziendali, delle casse integrazioni, della mobilità. Quindi la crisi, diciamo così, è riuscita a sorpassare le paure classiche che poi facevano da bacino di consenso, sì, per la Lega. Sì, sì, sì, sì. dici, Novara è una città sicura sostanzialmente. L'approccio però sarà un approccio sicuramente diverso. Infatti una delle nostre idee è quella di smontare quello che qui era l'assessorato alla sicurezza e di inserire la sicurezza insieme alle deleghe per le politiche sociali, perché sicurezza e politiche sociali sono due facce della stessa medaglia. Veniamo allora a quello che lei diceva è uno dei temi più sentiti dai novaresi, quello della crisi della disoccupazione. Che cosa intendete fare per il polo industriale novarese e per le aziende in crisi? Questo fa parte di quegli obiettivi che occupano tutta la politica amministrativa, a partire dalla scuola, a partire dai collegamenti che dobbiamo creare fra scuola, università e azienda, a partire dalla modifica del piano regolatore che a Novara non funziona, perché a Novara ha individuato un'area industriale che oggi per ammissione dello stesso dirigente mi diceva non ci vuole andare nessuno perché il costo al metro quadro è troppo elevato e gli imprenditori non ci vanno. Italia in Controluce, la seconda edizione, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.